Rassegna Stampa Europa. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Cambiamo un po' argomento, cambiamo un pochino orizzonte, restiamo sui giornali, ma sui giornali europei, per capire che cosa ci hanno raccontato questa settimana su temi europei e non solo. Comincio per una volta da un giornale che non è proprio di larga diffusione, un giornale accademico, si chiama Journal of Common Market Studies, perché ha pubblicato uno studio interessante da cui emerge che il Lussemburgo è il paese più attento a quello che succede negli altri stati dell'Unione Europea, mentre l'Italia è la nazione meno interessata alle notizie estere. La moneta unica non ha fatto crescere l'interesse dei media nazionali verso gli altri stati dell'area euro. È un po' severo questo giudizio, perché sfogliando i giornali anche oggi in realtà ci si rende conto che l'attenzione è sicuramente maggiore che in passato. Io sono tanti anni che sfoglio i giornali stranieri e effettivamente ho notato un cambiamento, cioè c'è per fortuna un maggiore interessamento a quello che scrivono i giornali stranieri, ma soprattutto quello che succede all'estero, che i giornali raccontano. Quindi questo studio pubblicato sul Journal of Common Market Studies è in realtà il frutto di una collaborazione tra Andrea Fracasso, docente di politica economica all'Università di Trento, e Giuseppe Vittucci Marzetti, che è ricercatore invece di politica economica alla Bicocca, e poi anche di Nicola Grassano, che è ricercatore presso il Joint Research Center della Commissione Europea. La ricerca ha utilizzato dati raccolti tra il 16 agosto e il 15 novembre 2010, quindi appunto, come spesso purtroppo le ricerche fanno, fotografano una situazione che spesso è già superata, e ha monitorato 148 testate europee. I paesi ai quali l'Italia è maggiormente interessata, si legge in questo studio, sono comunque la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna, mentre i paesi che si occupano maggiormente dell'Italia, che cioè dedicano articoli all'Italia, al nostro paese, più lunghi rispetto a quelli di altri paesi, sono, pensate, Malta, la Slovenia, Lussemburgo, Romania, Irlanda, Gran Bretagna e Bulgaria. È così sembra da questo monitoraggio. Ma passiamo un po', abbiamo parlato tanto di temi economici, non possiamo non farlo anche guardando quello che è stato scritto in queste settimane. Per esempio in Germania il Handelsblatt, che è un po' il principale quotidiano economico tedesco, esiste anche un'edizione tedesca di Financial Times, però il principale quotidiano economico è Handelsblatt, e scrive: il trimestre negativo, che sapete, ne avete sentito parlare tanto anche a Radio 24, il trimestre negativo del PIL, con questa certificazione del proseguimento della recessione del nostro paese, non può ricadere solo sulle spalle di Matteo Renzi, e proprio la situazione difficile può essere sfruttata dal Premier per imporre i suoi piani. Questo scrive Handelsblatt, se volete un ragionamento molto tedesco, no? Già, visto che i dati sono questi, non soltanto dovrebbe Renzi dire, secondo Handelsblatt, è chiaro che non è colpa mia, sono qui da troppo poco per prendermi la responsabilità di questo, ma soprattutto non criticatemi se vi impongo delle misure molto dure, perché la situazione è la situazione a chiederle e non io, per una sorta di sadismo economico. Dopo la grande apertura di credito dei mesi scorsi, i toni sono comunque speranzosi, anche se appunto la recensione ha disincantato Matteo Renzi, scrive Handelsblatt. La fonte di speranza ha brutalmente deluso le aspettative, però sarebbe certamente sbagliato attribuire la colpa del trimestre negativo soltanto al fiorentino. E la Süddeutsche Zeitung, che è un altro quotidiano tedesco non soltanto economico, è uno dei più grandi quotidiani tedeschi, diffuso soprattutto nel sud della Germania, anche in questo caso ha dedicato un articolo in prima pagina alle riforme. Il premier è sotto pressione per i dati economici negativi, adesso si deve finalmente arrivare allo spodestamento del Senato e all'abolizione delle province. E ci stiamo arrivando, tutto sommato, anche se, come abbiamo detto e come non ci stancheremo mai di ripetere, siamo solo al primo passaggio. Passiamo alle Figaro, perché in questo caso ha pubblicato un articolo che è stato poi molto citato soprattutto dagli esponenti di Forza Italia, ma in effetti le Figaro, che ha analizzato un documento della polizia francese, ha parlato di Mare Nostrum, che è quella politica contro l'immigrazione clandestina che dovrebbe essere una politica europea, ma che poi ricade soprattutto sulle spalle dell'Italia, che deve arginare questi fiumi di migranti che arrivano soprattutto dall'Africa. E le Figaro ha quindi elogiato il ruolo ruolo dell'Italia, che è in una posizione difficilissima e che spesso ha, sì, certo, respinge i migranti, ma ha anche un ruolo umanitario e lo sta svolgendo anche egregiamente. E scrive quindi Le Figaro: oltre 93.700 persone sono state soccorse in mare dalle unità navali nel quadro dell'operazione Mare Nostrum. E i migranti affluiscono senza sosta verso le coste italiane. E Le Figaro sottolinea che il governo di Roma spende per l'operazione Mare Nostrum 9 milioni di euro al mese, tutti a carico della sola Italia, senza nessuna contropartita da parte di Bruxelles. E naturalmente Le Figaro poi passa anche all'analisi delle conseguenze sulla Francia, perché c'è tanta preoccupazione per tutti i migranti che, come sappiamo, spesso in Italia passano solo il tempo necessario e poi però puntano ad andare verso il nord Europa, quindi Francia e Germania, e quindi anche la situazione, secondo Le Figaro, sta diventando insostenibile ai confini appunto tra l'Italia e la Francia per l'aumento dei migranti che, come sempre in estate, è esponenziale. Torniamo un pochino alle questioni economiche, saltiamo un po' di qui e di là, ma poi alla fine sono anche legate, perché appunto un paese in crisi che comunque spende 9 milioni di euro al mese per la questione dell'immigrazione clandestina è comunque, come vedete, tutto nel mondo di oggi è interconnesso, specie quando appunto ci sono di mezzo, oltre a questioni umanitarie, anche questioni economiche. E allora vediamo per esempio Financial Times, che, tornando ai famosi dati del secondo trimestre che hanno certificato un calo del PIL dello 0,2%, ha titolato: l'economia italiana è di nuovo in recessione, e crescono le pressioni sul giovane premier riformista Matteo Renzi perché approvi un aggressivo piano di riforme, ma crescono anche le critiche interne per non averlo ancora fatto. Di questi dati sono occupati veramente tutti, quindi anche per esempio il sito della BBC che ha anche fatto il confronto con altri paesi europei, spiegando che appunto il calo è stato più marcato delle previsioni e che quindi adesso bisognerà un po' rivedere probabilmente i piani. Però ieri Matteo Renzi ha detto: io vado avanti per la mia strada, prima le riforme costituzionali, che sono state, tra l'altro, la riforma, questa prima lettura del Senato effettivamente è stata approvata entro l'8 agosto, la data che era stata annunciata, quindi se anche l'altro, il resto della tabella di marcia, i famosi 1000 giorni di cui parlava anche Giavazzi sul Corriere, Walter Riolfi sul Sole, i 1000 giorni per le riforme economiche, prima iniziano meglio è. Anche il Wall Street Journal si è occupato di questo ritorno della recessione, sulla stessa linea di Financial Times, ha scritto: aumenterà le pressioni sul premier Renzi perché acceleri il percorso di riforme economiche, mantenendo al tempo stesso i conti in ordine. E qui naturalmente torna la questione europea, perché oltre al fatto che è il nostro semestre di presidenza, ma questo non vuol dire che si decida noi le regole che da autoimporci, torna la questione del patto di stabilità e dell'ammorbidimento di queste regole, perché appunto in presenza di questa recessione probabilmente dovranno esserci degli stimoli economici che potrebbero però far vacillare un po' i conti pubblici. Ma torniamo invece all'altra questione che abbiamo visto anche sui quotidiani, cioè la guerra in Iraq e il terrorismo in generale. C'è un interessante articolo del New York Times intitolato "Terrorismo, come l'Europa finanzia Al-Qaeda a colpi di riscatti". In questo caso la traduzione l'abbiamo grazie al sito di cui, sapete, io sono una grande fan e appassionata, che è presseurope.eu, che è questo sito che si occupa, era stato temporaneamente chiuso per mancanza di fondi, sono stati ritrovati dei fondi europei. E mi sembra veramente che tra i tanti soldi che l'Unione Europea spende queste poche centinaia, migliaia di euro che servono per tenere aperto questo sito sono ben spesi. Ora è tornato operativo e quindi, per esempio, appunto, ha tradotto questo articolo del New York Times. Vi leggo la prima parte: Al-Qaeda rapisce principalmente dei cittadini di paesi europei perché i loro governi sono suscettibili di pagare i riscatti. È un'inchiesta che è appunto del New York Times. Basandosi su interviste di ex ostaggi, negoziatori, diplomatici e rappresentanti dei governi europei, africani e medio orientali, il giornale ha scoperto che Al-Qaeda e dalle sue filiali hanno incassato almeno 125 milioni di dollari, circa 93 milioni di euro, dai rapimenti compiuti dal 2008, 66 dei quali sono stati pagati soltanto l'anno scorso. Questi pagamenti sono stati fatti esclusivamente da governi europei, che hanno fatto pervenire i soldi attraverso una rete di intermediari e mascherandola addirittura a volte da aiuti allo sviluppo. Secondo il rapporto, anche Austria, Germania, Italia e Svizzera, oltre alla Francia, hanno pagato riscatti, ricordiamo che vengono sempre smentiti i pagamenti di questi riscatti, così come la Finlandia, il Qatar e la Spagna. Il Qatar e l'Oman avrebbero pagato 15,2 milioni di euro a nome di alcuni governi europei per ottenere la liberazione di cittadini finlandesi, austriaci e svizzeri detenuti nello Yemen, che sapete è una delle destinazioni più pericolose proprio per questi sequestri che ci sono spesso sulle strade meno trafficate del paese. Passiamo, a proposito di questioni europee e di commissione, a un giornale del Lussemburgo che si chiama Luxemburger Wort e che incita Juncker, perché sapete che la commissione non è ancora composta, il governo dell'Unione Europea ha un premier, che è Juncker, potremmo dire, che non ha ancora però tutti i suoi ministri. Sapete sicuramente la questione Mogherini, il nostro ministro degli esteri, che è anche candidata a essere l'equivalente di ministro degli esteri dell'Unione Europea. Ci sono però molte resistenze, quindi Luxemburger Wort invita Monsieur Juncker a chercher les femmes, cioè a scegliere, come è successo anche in molti altri dei governi più formati più di recente, molte donne per il suo esecutivo. Con meno di 9 donne nelle sue fila ipotetiche, la Commissione non otterrà la maggioranza richiesta del voto previsto a ottobre dal Parlamento. Jean-Claude Juncker deve darsi da fare per raggiungere la quota del 40% di donne nella sua squadra, perché se il Presidente del Parlamento Europeo, che Martin Schulz, sarà di parola, l'Assemblea non darà il via libera a una commissione a 28, perché 28 sono i membri della commissione, quindi i cosiddetti ministri, con meno donne di quella uscente. Ultimissima segnalazione dal Giornal de Noticias, su un quotidiano del Portogallo, che ci spiega come salvare la banca Espírito Santo, quella che è la banca principale del Portogallo, che sapete ha annunciato, il 3 agosto è stato annunciato il piano di salvataggio da parte della Banca Centrale del Portogallo, costerà 4,9 miliardi e naturalmente si cerca anche di capire come sia stato possibile arrivare a una situazione del genere per la banca più importante del Portogallo, di cui sapete Ronaldo era il principale testimonial. Era l'ultima segnalazione che riuscivo a farvi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli, ci risentiamo domani per la rassegna stampa dei quotidiani. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, che è riuscito a tenermi dei tempi. Ancora una buona giornata a tutti voi. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.